comunicazione che posso utilizzarlo come squadratrice e taglio la squadra. Poi un altro tipo ancora di cosa sulla con la cosa, come si chiama, la sveglatrice, lo stesso, quello ho fatto un'altra applicazione che addirittura posso tagliare anche i mattoni, i pavimenti, il ferro, il legno, tutto posso tagliare, come sempre con quella macchinetta lì. Poi ho tutto il resto, è la ballerina, è il carro armato, è il trapano a colonna, è il trapano a batteria, quella adesso anche questo vedete, qua a filo, poi ho il traseratore, come ti ho detto, che funziona anche da trapano, anzi addirittura con lo mandrino, mi avevo comprato il mandrino che potevo utilizzare, siccome il traseratore è USB, no? Con l'attacco USB, e ho comprato il mandrino che posso utilizzarlo a trapano normale, per cui non c'è problema, anche quello l'ho comprato, non mi serviva, l'ho comprato, tanto buttavo 10 euro questo mandrino, e va bene, va molto molto bene, devo dire. E tante altre cose, l'unica cosa che mi manca adesso è una moletta 220, perché la mola ce l'ho, ma è quella trifase che ho in falegnameria, ma stavo pensando di trasformarmela in 220, che bisogna che controlli bene se è trasformabile, ma suppongo di sì, invertendo il collegamento, i fili e mettendoci il condensatore, o magari prende un po' di potenza, ma per quello che devo fare io adesso non è più come una volta, prima mi serviva la potenza massima, ma adesso anche se la trasformo a 220 prende un po' di potenza, ma non è quello che mi interessa, va bene lo stesso, mi servirebbe, penso io, per affilare i salpelli, per affilare il ferro del pialetto, queste cose qua, Tony. Io sono dal 70, quindi sto anche io pian piano avanzando. centro, per carità, andiamo da, da tribolare. Giulio, Giulio, vai avanti. Ok, ok, Tino. Beh, caspita, tu sei del 70, caspitina, io sono del 42, fai un po' la differenza, e sai, quanti, quanti anni te ne vinco, tanto per darti un'idea, no? Una trentina d'anni, più o meno, quasi là. Sì, è molto lì, è così, adesso infatti mi è venuto l'idea, adesso che ho comprato questo trappolo, con quel trappolo lì voglio farmi anche il turno, tu mi dirai, ma non ne vale la pena, con 100, 140 euro te lo compri il turno, no, fatto, ma non è quello il fatto di, la soddisfazione di farlo, e lo faccio con quel trappolo lì, gratuitamente, così magari trovo un pezzo di legno che ne ho ancora in bottega qualcosa, no? E così pasticcio e faccio, ma magari poi li butto, perché tanto non saprei cosa fare, se mi metto a tornino il legno, qualcosa, eccetera, eccetera, poi cosa me ne faccio, ma era solo per passare il tempo, Tony. Ecco, quel trappolo voglio fare anche perché 710 watt di potenza, dunque è sufficiente per poter far girare un trappolo, un tornio, e allora mi diverto anche con quello, adesso uno di questi giorni, e così lo stesso discorso per una presatrice che ho, quello mi farò il sistema che a sollevarlo, ad alzarlo meccanicamente, in modo da poter fare tutte le presature come voglio io, perché alle volte fa una presata l'albero vuole più in alto, più in basso, eccetera, eccetera, oltre che alla guida d'appoggio che vuole più all'interno, più all'esterno e così via, ma bisogna anche considerare l'altezza. È stato per divertirmi, ho lì, solo perché per la passione per il legno che ho sempre avuto e che continuo ad avere nonostante i miei 82 anni. Vai Tino. Bello, bello, io lo stavo cercando, no? un tornio così per legno, l'ho avuto anche, l'ho avuto perché me l'hanno prestato e vabbè, poi non era grandissimo, era piccolino e mi facevo qualche cosa, anche il manico della stufa, per dire, ti dico una stupidaggine, no? Il manico della stufa a legna che ho, l'ho fatto io, poi in qualche lavoretto così, ma giusto così per passare, come hai detto tu, qualche ora, ma non c'è cosa fare, lo accendi e ti impegni un po' la testa su quelle cose lì. Ma tu ce l'hai di passione, ce l'hai, hai fatto una vita con il legno, quindi ti capisco, ti capisco. Anche perché non riesco a dimenticarmela la passione per il legno. D'altronde ne ho fatto quasi 60 anni, cosa vuoi, che di punto in bianco mi dimentico, assolutamente no. Infatti io quando sono a casa me ne salgo su in mansarda, che ho lì uno spazietto, e pasticcio per modo da dire, alle volte faccio cose anche utili anche per quello, no? Però di solito le faccio, a dipende dal materiale che mi ritrovo, magari se mi serve qualcosa vado in falegnameria, qualcosa ancora ho, non molto, ma qualcosa ho, oppure vado a Brico e compro qualche pannello, qualche listone, qualche cosa del genere, ed ecco che trovo il modo come giocare, diciamo così, dai, giocare ancora a questa età. Vai Tony. Nel 70 Tino tu praticamente hai 54 anni e io invece sono 54, io compro il 70, vedi, sono più vecchietto, vabbè. Dunque, telefono. E poi questo è uno spam, a me manco mi interessa. Adesso può che manco rispondo. Ce la faccio. Sì, ancora no, ho cambiato radio, ancora no, 53 toni, quindi. Giulio, questo è un altro similare, però un'altra diversa radio. Una dovrebbe essere precisa, quella che stai utilizzando tu. Questa è una HR5005. È un ottimo baracchino, un'ottima radio, veramente, è molto molto bella, molto presente, una radio speciale nel senso che della qualità, va benissimo Tino. Io tieni presente che sto andando sempre con sulle 2 watt, motore dove va, ti mandano da luce da sempre praticamente, utilizzo sempre questa potenza e poi di più non è che ne posso avere molto, al massimo posso avere questa, che siamo, ecco, adesso sono 10 watt, ma che è il massimo del baracchino, poi lo riporto di nuovo a 2 watt, lo riporto perché tanto serve utilizzare 10, per cui non ho altro, non ho lineare, non ho niente, ottino, e va bene lo stesso, già mi diverto ugualmente, dai, soprattutto quando incontro persone come te, come Tonino, eccetera, eccetera, mi fa molto, ma molto piacere. Mi prendi ancora attivo e fai girare? Sì, sì, ah, io lo stesso, io adesso, vabbè, sto utilizzando, portante bianca sono 8 watt, poi va un pochino a spingere con il picco di modulazione. No, questa qua è una radio che tempo fa l'ho comprato da Gian Maria, un'ottima radio per quanto mi riguarda i veicolari, parliamo di baracchini normali, l'ho associata al Galaxy Pluto, una cosa del genere, presso a poco. L'unico pecco che ha questa radio qua che è leggermente spostata in banda laterale, in USB. Invece LSB va bene, in FM va bene, AM lo stesso, l'unica cosa che è spostata in quella banda lì. Infatti quando Fabrizio avrà maniera di metterci nuovamente le mani sopra, perché questa me l'ha fatta un pochino lui per poter utilizzare qualsiasi tipo di amplificatore in maniera tale che non vada in saturazione, adesso diciamo che è liscio, quindi va più che bene così, sempre una coppiata con un MB-5, quindi l'antenna è la solita, la uso per tutte le radio, quindi va più che bene, perlomeno per quanto mi riguarda. Va bene, riprendi Tonino. Cosa volevo dire? Dato che non mi avete detto niente, presumo che come radio io sto scendo bene, perlomeno con te Tino, perché Giulio già tempo fa mi aveva saputo che stavo scendo bene, tutto qua. Dimmi com'è la radio mia? Guarda, io non so cosa tu stia utilizzando, ma è amplificata, è forte, conosco a te di persona in verticale, la tua modulazione è un po' più robusta in questo caso, ma va bene. Ecco, sto utilizzando lo Shure, il famoso Shure grigio che si alza la capsula e c'è il volume rosso, il famoso Shure vecchio. Ah, ho capito, la radio cosa stai utilizzando? La Fayette si chiama 2004 FM, non c'è posto da fare. Beh, non sono presente, adesso ho anche il PC che mi sta dando problemi, mi sono dando problemi in PC, infatti domani, massimo, dopodomani lo devo portare a ricovero. No, io ho cambiato per non avere sempre le HF accesi, questo qua è uno, un baracchino, eccolo qua, che se ne sta andando. Sei mollato di tanto. Sì, ho mollato, non so perché. No, io ti ascolto sempre forte, Tino, perfetto, ultimo. Comunque ho visto che questo baracchino qua si sposa bene con lo Shure. Sì, però se ne sta andando, forse l'alimentazione che non ce la fa tenerlo. Infatti quando faccio passaggi lunghi ci abbassiamo un pochino, ora, ecco qua, dovrebbe andare bene anche così è 2 watt e con un picco di modulazione circa 10-18, se non mi ricordo, non capisco perché stava mollando. E comunque ha aumentato di amplificazione come è abbassato. Avanti Giulio. Ok, riprendo io. Sì, beh certo, mi stavi dicendo sì, che hai le 5005, praticamente dovrebbe essere l'HR 5005, è un ultimo baracchino veramente. Non so se hai l'istruzione in italiano, in quel caso lì, se non ce l'hai, se è sempre il 5005, ti posso spedire il sito dove trovarlo, no, non c'è problema. Ok, poi me lo dirai, vai Tino. Sì, guarda, è una cosa che mi manca, Giulio, addirittura guarda, è che, se ripeto, ho il PC messo male, però volevo fare delle modifiche in ascolto con Gavino e non avevo la possibilità di entrare nel menu di Cosa Radio, perché tempo fa l'ho fatto, cosa mi è rimasta in mente, ma non tutto. Se mi dai il link mi fa solo che piacere, se me lo spedisci, Giulio. Sì, questo è un Intec HR5005, insomma, è un buon apparato, una buona spinta, è stato modificato solo nei watt, infatti anche Torino se ne è accorto, adesso ho abbassato tutti i watt, adesso sono a 0 di watt dal pomello, però mi segna circa 2 watt, posso dire anche quanto il watt sta dando. Ora vediamo un attimino, sono con la scala a 5, sì, massimo sta dando 3 watt modulati, 3 watt modulati. Sì, Tino, non c'è problema, ti mando il sito su WhatsApp, ti mando e poi tu te lo scarichi quando vuoi, come ho fatto io, anche a me mi avevano dato il sito, poi me lo sono scaricato, anzi non io perché il computer non è che lo so usare più di tanto, ma me l'ha scaricato mia figlia, mi ha fatto anche il libretto, mi ha fatto voilà, con tutte le pagine cucite con la pensatrice, per cui ed è proprio quello, HR5005, che poi si sposa benissimo con le CRT 1009N, perché tanto sono tutti uguali, ce ne sono di questo tipo di moduli, perlomeno interno, a differenza magari esteticamente fuori, ce ne sono, mi sembra, 15-17 in tutto, di varie marche, però sono sempre quelli, danno la stessa regolazione, la stessa qualità, eccetera, eccetera. Per cui ti mando il sito, non c'è problema, o Tino, ok? Sì, grazie Giulio, grazie, mi fa solo più piacere. Va bene, dai, rilancio il mic a Tonino, aspetto, dai, anche io devo annullare qua, perché devo preparare, devo fare la cosina qua ancora, quindi devo allontanarmi dalla postazione. Toni, dai, vai avanti tu, aspetto i finali e poi vado via anche io, dai. Ok, dai, io faccio compagnia ancora un po' a Giulio, e poi tra 10 minuti anch'io stacco perché devo preparare quando la carica la batteria. Ok, dai, Tino, è stato piacere sentirti, ti sento da molto presto, da quando stavi nei controlli a Giulio, per il fatto della radio avere dei rumori sopra. Comunque, saluta la guardia con carica, quando lo fai, stavi bene, alle prossimine. Avanti Giulio. Ok, ciao Tino, allora, se stai andando via, se stai chiudendo, ci sentiamo, ti mando il sito su WhatsApp, così tu non fai altro che aprirtelo e te lo scarichi poi al computer, ti fai l'opuscolo, ti fai dove appunto si legge chiaramente tutto quello che devi fare, vabbè, qualsiasi tipo di impostazione, c'è scritto tutto, non c'è problema. Ti avrei mandato le fotografie direttamente dall'opuscolo, ma sono pagine grandi, ce ne sono diverse, non è che ti posso mandare tutte quelle pagine, penso che ti faccia più comodo che io ti mandi il sito, in modo che tutto poi te lo fai per conto tuo. D'accordo, Tino? Sì, grazie, va bene, no, non c'è problema, e poi già mi sistemo io come meglio mi interessa, perché tanto andrò a cercare solo la voce che interessa a me. Vi ringrazio, va bene, mi ha fatto piacere, dai, dopo tanto sentire un po' di vecchi CB, tra virgolette, non per l'età, ma per la vecchiaia in CB, come sto parlando poc'anzi, Giulio. Dai, ci sentiamo, saluti al vostro Correa, e niente, buona carica quando la farete. Ok, ciao di nuovo Tino, allora dai, buona carica anche a te, grazie per la chiacchierata, avremo modo di risentirci, speriamo molto presto. Ok, ci mando avanti Tonino per i saluti, vai Tonino. Ok, infatti Tino si è staccato di nuovo perché dice quando scarta per poter dire un qui, succede questo. D'accordo Tino, di nuovo, buona carica, salutone, buona domenica, buona serata pure, ci sentiamo alle prossime, stai bene, tanto piacere anche a me sentire. Avanti giù. Hai ragione, mi si è... non so cosa stia capitando, devo cambiare il filo di alimentazione. Vabbè. Ok, vi saluto ancora, dai, così almeno con questo posso stare anche tra notte col mic schiacciato. Ok, avanti giù. Ok, ciao di nuovo Tino, alle prossime, dai, ci sentiamo. Bene, bene, subito dopo che chiudo qua con Tonio ti mando il sito, no? Non c'è problema, perciò tu lo sai, fra un po' controlla che riceverai il mio messaggio tramite WhatsApp. Bene, bene. E così ti stavo dicendo, tu, Tony, con tutte queste macchinette che ho, cosa a un certo momento, ed è da fermare anche un peccato, però allora intanto io qualcosa faccio, ma lo faccio solamente per passare il tempo qui a casa, tanto sto uscendo poco e niente, sto uscendo, e dunque, almeno se non altro quello, posso passare il tempo facendo certi lavoretti che mi servono e non mi servono, mi servono solo per distrarmi un pochino. No, io niente, no, su questo lato qui niente, per distrarmi niente, c'ho sempre da fare qua, non preoccuparti, altro che per distrarmi, io la campagna c'ho sempre da fare, e quindi poi tra l'altro non parliamo degli amici e parenti che mi chiamano di giorno a parte all'altra, poi sto assistendo anche un anziano che intanto mi chiama, vado giù a casa sua, che abita la figlia Montibuti, e dice prendi la macchina mia perché non la usa più, e lascio la mia in campagna e gli faccio la spesa, insomma, sono sempre interfatto una cosa all'altra, capito? E quindi la giornata me la faccio così. Parenti, amici e tutto quelle cose. Tanto volte anche mezzo dice non farsi mai affidati caffè, ma non posso, sono libero, già passo, non preoccupato. Purtroppo tra una cosa e l'altra, io pensavo che andava in pensione, avevo tutto il tempo, invece, peggio di prima giù, meglio da travagliare. Beh, tu dici, finché uno ce la fa va sempre bene, non c'è problema. Io avrei anche continuato, ma qui tutto sommato, se vogliamo, sono stati più che altro a casa, detto basta, cosa stai lì, tutta la vita deve lavorare, hai lavorato abbastanza, per cui non credo che sia il caso di continuare. Allora ho deciso di chiudere, però devo dire che mi è mancato e mi manca ancora, tu non hai idea di quanti video mi guardo io su WhatsApp, ad esempio su YouTube, anzi non su WhatsApp, su YouTube mi guardo tanti di quei video di questi hobbisti che ci sono sempre online e vedo un po' quello che fanno e mi diverto anche passando il tempo guardando il tablet oppure il computer, che ci sono dei video relativi a tante cose, non solamente a lavori di falegnameria, ma anche di tutto. Mi appassionano anche vedere quelle cinesine, quelle donne che fanno i lavori da meccanico, tu vedi certe donne capita, riparando trattori, riparando motociclette, riparando compressori d'aria, avvolgimenti motori, elettrici, tutte queste belle cose qua. Sono straordinari, veramente. La maggior parte di queste persone sono tutte ragazze cinesi, o Tony. Non so se tu li segui su YouTube. Ma io veramente vedo su internet anche ferroviari cosa sono, non so, questi strani che nella giungla addirittura con quasi niente ti costruiscono la casetta, ma come cavolo fanno? È veloce. E vedi, fa tutto, fa anche il laghetto, diciamo, per i pesci, la casetta per lui, ma veramente è bello, guarda. Mi piace vedere questa cosa qua, viene bello, la guardo. Però ripeto, no, io non mi ci metto a fare certe cose assolutamente. Allora ho avuto anche quando diciamo con l'operazione alla schiena che mi ha buttato giù. Infatti secondo come mi inchino nel deserto, quindi cerco di inchinarmi di meno. A me me l'ha aperto davanti e dietro, quindi. Infatti quando ero poi uscito dal salone operatorio, poi dei domani c'era l'infermiera giovane, tutte ragazze giovani, scusa, mi potresti dire una cosa? Mi ha detto, mi dica, ma cosa ho partorito? Maschio o femmina? Si è messo a ridere, ma mi sono in Italia, mi hanno fatto in faccia, e che cavolo! E niente, dopo peraltro mi hanno fatto già alzare a camminare, ho detto, che pita, non pensate da parte allora e non che... Quindi sono due persone, un maschio e una donna, mi hanno aiutato da una parte all'altra a camminare più piano piano perché dovevo camminare, perché qui. E vabbè, comunque, passata che quello, perché io giustamente nel 2021 ho detto questo giugno, io stavo ancora lavorando, ho detto, io vado in pensione a settembre, mollo il lavoro, non vorrei andare a camminare con le stampelle, perché io facevo tre passi, mi devo fermare, dolore fortissimo alle gambe. E quindi ho preferito andare a operarmi. Prima sono andato qui con Emanuele, mi sono operato lì nel disco e poi mi sono fare l'altra operazione che la prima del disco è durata, quasi posso dire, un'ora e mezzo. Mentre invece la seconda operazione che ho subito di più, 7 ore sono operatorie, quindi ho sofferto parecchio. Sono stato deciso e mi sono operato, ho fatto 13 perché la mia operazione è riuscita abbastanza bene, sono contentissimo, ora cammino che non è la mia. Avanti giù. È meglio così, sono contento per te che ti sei ripreso bene. Tu dici, lo so, sono dolori fortissimi, io lo tu va bene, l'idea del disco è un po' differente, ma è simile la cosa, la sciatica. Io ho avuto la sciatica, non adesso ma tanti anni fa, e devo dire che stavo male, veramente, per mesi e mesi, poi alla fine sono riuscito a guarire. Un placone che poi a un certo momento avevano tutti e due nati che da una parte all'altra tubefatte dalle punture, perché da un giorno all'altro non guariva questa puntura, siccome la facevo tutti i giorni questa puntura, avevo le nati che tubefatte sia da una parte che dall'altra dalle punture, però non mi avevano fatto niente, devo dire che non avevo fatto niente. Poi alla fine mi sono stancato e un giorno, parlando con un mio cugino che lavorava all'università, lui era nel settore dove curavano gli animali, tipo le vacche, queste gente, questi cavalli, eccetera. Cioè, tu hai lo stesso, dice, problema delle vacche. Ma cosa stai dicendo? E guarda che non sto scherzando, guarda, se vieni, dice, in cosa, da me, se vieni da me, ti metto davanti alla macchina dove metto le vetrate che stai bene. Allora vai, esci me la metto. Beh, sì, t'ho stato, vieni, guarda che non sto scherzando, fallo, prova. Intanto male che vada, se non ti va bene, vuol dire che non ti ho fatto niente, basta. Però provaci. Dai, e dopo ti continuo il discorso, Tonio, riprendi. E vabbè, io purtroppo, allora il mio non era il fattore dell'epine del disco, lasciate come ci trovo, Giulio, mio è più complicato. Allora noi abbiamo un canale dove passano tutti i nervi, praticamente il mio andava a finire in punto, ecco perché, e come toccava i nervi, ho collato e vedevo le stelle, non potevo camminare, era molto brutto. Tant'è vero che qua Sassari mi ha detto, questo chirurgo doveva tagliarmi un pezzo di osso sacro sotto e mettere una placca titanio, e gli ho detto sinceramente, su queste sole parole, la placca te la metti in testa, poi fa culo, e me ne sono andato via. Poi mi hanno parlato di questo dottor Tregioni, mio nipote, che si è operato il marito di un'amica sua, l'ho chiamato, ci ha dato appuntamento, ci ho detto cosa portare, la risonanza magnetica, eccetera, eccetera. E mi ha detto sì, qua a Sassari usano questo, così io gli metto la stessa cosa, metto quello a Sassari del chirurgo. Dice no, noi facciamo tutta una cosa diversa. Noi abbiamo dietro, mettiamo i tiranti, le viti e davanti alla gabbietta al titanio e allarghiamo leggermente, quindi tu dovessi migliorare al 100%. È vero, infatti, ho migliorato al 100%. E ti posso dire, sono veramente contento e soddisfatto. Qualche duro mi ha detto male di questo dottore, ma veramente dice, ha rovinato molte persone. Io sinceramente, per quello che ha fatto a me, io sono troppo contento e soddisfatto. Poi non so se un altro per colpa del dottore o per colpa di chi, non so. Io ripeto, non posso parlare male di questo dottore perché mi ha operato, sono contentissimo. Ha operato anche Emanuele, grazie a Dio, e cammina Emanuele, perché camminava con Emanuele, io poverino lo vedevo anch'io, dai, e io peggio di lui. Eravamo due sciancati, adesso è tutta un'altra cosa diversa, cosa che corre posso fare, tutto proprio buio. Io mi sono ristabilizzato dal 2021 a oggi e sono troppo bene. Ok, certo, lo capisco cosa vuol dire un dolore del genere. Tu pensa che io, che la mia non era il disco ma era la sciatica, era simile più o meno come, come cosa, perché era sempre questione di nervo, partiva dal lombo fino al tallone e mi si spostava continuamente questo, questo, come se avessi infilzato nella gamba una specie di pugnale, e un po' ce l'avevo nella coscia, un po' ce l'avevo nel polpaccio e un po' mi arrivava sino al piede e così via, e avevo la gamba che la trascinavo, non potevo muovermi, e sono stato non mai 6 o 7 mesi che stavo malissimo, per dire, no? E beh, alla fine ti stavo dicendo, convinto mi aveva mio cugino, e vado lì e mi metto davanti a questa macchina, era una macchina che mandava calore. Beh, quando sono uscito da questa macchina, tu pensa che sono entrato tutto da volante, quando sono uscito da questa macchina non avevo più niente, cioè sano, quando mi si è raffreddato di nuovo da capo, di nuovo il dolore, capito, ho fatto, boh. Allora ho pensato, ho rimuginato un pochino, ma se io me lo faccio questo trattamento a casa con una stufa elettrica e mi scaldo bene da parte dell'ombo, eccetera. E così ho fatto, ho preso una di quelle stufe antiche, quella parabola, sai, con la pigna elettrica, eccetera. Mi mettevo per terra una coperta, per quel cavo attaccavo la presa, la spina, la presa, e mi scaldavo dall'ombo fino a tutta la gamba. E me lo facevo rosso, addirittura tutta quella parte del corpo me la facevo diventare rossa dal caldo della stufa. Beh, lo sai che nel giro di pochi giorni mi è passato completamente il dolore, e io ero roba di 7 mesi che non riuscivo a stare né giorno né notte, perché era impossibile poter resistere dal dolore. Tu mi dirai, ma come hai fatto? Eppure ti dirò che queste applicazioni di calore che ho fatto mi hanno guarito dalla sciatica. E beh, ci sono persone che fanno la problema di mal di mamma, per esempio, non so, per il braccio, abbiamo già detto, sto dicendo, con la lampadina scaldava, col calore ti è passato, capito? Quindi sì, ci credo, perché no, sono contento per te che ti è andato tutto bene, grazie a Dio, senza usare. Io, ma nel senso, non fare un'iniezione come nel senso hai detto tu, io avevo il sedere che era a colabrodo, Io ho fatto una 50 lezioni prima di operarmi, ma io me ne scappo i gamberoni, pesca di zaini, aduroni, camminavo proprio male. E quindi ho deciso di operarmi, mi sono operato, sono troppo contento. Lui è stato fattore mio, e purtroppo è stato fuori, fatto operare a lungo, la vetta. E lì era Cecilia Hospital, ma veramente un ospedale con le contrapalle. Era privato, grande, enorme, molto più di quello di Sassari. Addirittura stavano anche ampliando, costruendo a fianco. Qui dentro mancava solo il cinema, c'era tutto. Dal supermercato, barbiere, parrucchiere, edicola, bar, tutto. Qualsiasi cosa c'era tutto, la vita. Sono stato veramente soddisfatto. E io mi sono pagato il viaggio, qualche giorno di B&B, perché poi mi ha fatto un pre-ricovero che sarebbe andare un giorno o due giorni prima, fare tutte le analisi, poi ci vai io poi, dunque sono fatto pre-ricovero il venerdì. Il sabato poi niente, sono andato la domenica, mi hanno fatto ricoverare e lunedì mattina mi ero operato, penso a poco. Poi è stata una settimana ancora all'ospedale di... Oh, ho chiamato a uno, c'era il numero, fammi la barba, perché era con Luca, che se me l'ha fatto un rassoio, usa eccetera, e quindi sì, io, la faccia cos'è, una barbadona ce l'avevo, almeno dammi lo scontrino, ce l'hai fatto male, e mi ha fatto scontrino proprio che mi ha fatto i capelli, perché hai pagato i suoi piani, Giulio. Vabbè, cosa ci vuoi fare? Cosa ci vuoi fare, Tony, d'altronde? Ma comunque è meglio che sia andata bene tutto, così almeno te ne sei liberato di quel fastidio. Però no, non esagerare, quando fai dei lavori prendendo pesi eccetera, non esagerare. A me, sai come mi è successo questo fatto della sciatica? Stavo verniciando la persiana e fare gialleria e l'avevo appoggiata al muro, già verniciata. A un certo momento mi sono accorto, quando mi giro ti vedo che c'era una lacrima di vernice che stava scendendo. Prendo il pennello che stavo ancora continuando a verniciare le altre persiane, mi inchino e raccolgo questa lacrima dalla parte bassa di questa persiana. Come mi sono sollevato, ci ho sentito questa fitta, ma una fitta tremenda. Ma di per vino ci ho fatto caso, perché dopo qualche minuto, diciamo, il dolore c'era, ma era sopportabile. E ho continuato a lavorare. continuate a lavorare domani, caspita, mi ci attacca questo dolore, boh, sono guidato 2 o 3 mesi, beh, tu non ci crederai, Tony, sono arrivato a coricarmi in mezzo al mucchio della segatura in bottega, perché andavo anche a lavorare quando, tutto per distrarmi, tutto per vedere se riuscivo a dimenticare il dolore. Addirittura sono arrivato a coricarmi per terra in falegnameria sulla segatura, dal dolore non potevo stare, per dirti no com'era. E guarda, oggi sono alla bassa, dai, tal caso ci sentiamo, dai, guardi se la parte mia e riprendiamo la prossima volta. Ciao Giulio. Ciao Tony, grazie per la chiacchierata, dai, continua pure con la bassa, ciao, alle prossime.